Capitolo 26esimo. Carattere e imprese di Panna. Molti potenti dei e dee della Grecia non furono mai compresi nel numero dei 12 Olimpi. Pan, ad esempio, umile senza pretese, si accontentò di vivere dei prodotti della terra nella campagna d'Arcadia. Ade, Persefone ed Ecate sanno di non essere ben accetti sull'Olimpo e la madre terra è troppo vecchia e affezionata alle sue abitudini per adattarsi alla vita in comune coi nipoti e pronipoti. Certuni dicono che Ermete generò Pan in Driope, figlia di Driopo, o nella ninfa Enide, o in Penelope, moglie di Odisseo, che egli coprì sotto forma di ariete, oppure nella capra Amaltea. Si dice che Pan, appena nato, fosse così brutto a vedersi, deformato com'era da corna, barba, coda e gambe di capro, che sua madre fuggì atterrita, mentre Ermete lo portò sull'Olimpo per far divertire gli dei. Ma Pan era fratellastro di Zeus, e dunque più vecchio di Ermete o di Penelope, che l'avrebbe generato, come altri affermano, dopo essersi unita a tutti i pretendenti che aspiravano alla sua mano durante l'assenza di Odisseo. Altri ancora vogliono che Pan fosse figlio di Crono e di Rea, o di Zeus e di Ibris, benché questa sia la versione più improbabile. Pan visse in Arcadia, dove pascolava le greggi e allevava le api. Partecipava alle veglie delle ninfe montane e aiutava i cacciatori a snidare la preda. Egli era in complesso pigro e di buon carattere. Nulla gli piaceva più della siesta pomeridiana e si vendicava di chi veniva a disturbarlo lanciando dal fondo di una grotta o dal folto di un bosco un urlo tale da far rizzare i capelli in testa. Tuttavia gli Arcadi avevano così poco rispetto per lui che semmai ritornavano a mani vuote dopo una lunga giornata di caccia, osavano sferzarlo con dell'ascilla. Pan sedusse parecchie ninfe come Eco, che gli generò Iungo, e poi ebbe un infelice amore per Narciso, ed Eufeme, nutrice delle muse, che gli generò Croto, il sagittario dello zodiaco. Pan si vantava inoltre di essersi accoppiato con tutte le menadi ubriache di Dioniso. Un giorno tentò di sedurre la casta Piti, che riuscì a sfuggirgli soltanto trasformandosi in un albero di fico, e Pan se ne appese al collo un ramo a guisa di scapolare. In un'altra occasione inseguì la casta Siringa dal monte Liceo fino al fiume Adone, dove essa si trasformò in giunco. E allora, poiché non riusciva a distinguerla da tutti gli altri che crescevano lungo la riva, egli recise molti giunchi a caso e fabbricò lo zufolo. Il suo maggior successo amoroso fu l'aver sedotto Selene, e ci riuscì mascherando il proprio nero pelo caprino sotto un vello bianco. Selene, che non lo riconobbe, acconsentì a salirgli in groppa e lasciò che egli godesse di lei a suo piacimento. Gli dei dell'Olimpo, pur disprezzando Pan per i suoi modi rozzi, ne sfruttavano le capacità. Apollo imparò da lui l'arte della profezia ed Ermete copiò lo zufolo che Pan aveva lasciato cadere. Si vantò poi di averlo inventato e lo vendette ad Apollo. Pan è il solo dio che sia morto nei nostri tempi. La notizia della sua morte giunse all'orecchio di un certo Tamo, marinaio su una nave diretta in Italia. Una voce divina gridò dal di là del mare: «Tamo, quando raggiungerai Palodi, annuncia a tutti che il gran dio Pan è morto!» Così fece Tamo, e la notizia della morte di Pan fu accolta con gemiti e lamenti. Il nome di Pan, che di solito si fa derivare da Paein, pascolare, sta per il demone o l'uomo eretto, presente nei culti arcadi di fertilità, che erano assai simili alle operazioni magiche dell'Europa nord-occidentale. Codesto uomo, vestito con pelli di capra, era l'amante eletto delle menadi durante le loro orge sulle vette delle montagne e presto o tardi pagava con la morte questo suo privilegio. Le versioni della nascita di Pan sono varie e contrastanti. Poiché Ermete era il nome che risiedeva nella pietra fallica attorno alla quale si svolgevano le orge, i pastori descrissero il loro dio Pan come figlio di Ermete e di un picchio, l'uccello che, battendo col becco sui tronchi, si credeva annunciasse le benefiche piogge in estate. La leggenda che Ermete generasse Pan in Enide si spiega da sé, benché in origine le menadi usassero ricorrere ad altre sostanze inebrianti che non il vino, e il nome di un'altra delle supposte madri di Pan, Penelope, con una rete sulla faccia, lascia supporre che le menadi si dipingessero il volto prima di iniziare le orge, e se lo dipingevano probabilmente a strisce colorate, simili a quelle della Penelope, un'anatra selvatica. Plutarco dice che le menadi che uccisero Orfeo erano state tatuate in punizione dai loro mariti, e una menade con gambe e braccia tatuate secondo il disegno di una rete appare su un vaso conservato al British Museum. Ermete, che si reca da Penelope sotto forma di ariete, l'ariete demonio che ha nella stregoneria dell'Europa nord-occidentale la stessa importanza della capra strega, la leggenda che Penelope stessa fosse stata fecondata da tutti i suoi pretendenti o che Pan si accoppiasse con tutte le menadi, si riferiscono al carattere promiscuo delle veglie in onore della dea dell'abete, Piti o Elata. I montanari arcadici erano i più primitivi della Grecia e i loro vicini più civili li disprezzavano. Il figlio di Pan, il torcicollo o uccello serpente, era un uccello migratore che veniva impiegato per la magia erotica. La scilla contiene un veleno irritante, assai efficace contro topi e ratti, che era usato come purga e diuretico da chi si preparava a partecipare a un atto rituale. Così la scilla finì col simboleggiare la liberazione dalle influenze maligne, e il simulacro di Pan veniva fustigato con scilla se la caccia non era stata fruttuosa. La leggenda di Pan che seduce Selene si riferisce probabilmente a un'orgia che si svolgeva al chiaro di luna a Calen di Maggio, giorno in cui la regina di Maggio cavalcava sull'uomo in piedi prima di celebrare le sue nozze con lui. A quell'epoca il culto dell'ariete aveva soppiantato il culto della capra in Arcadia. L'egiziano Tamus, a quanto pare cadde in un equivoco e, udendo il lamento Tamus Pan Megas Tetneke, il grande Tamus è morto, capì invece Tamo, il grande Pan è morto. Plutarco, sacerdote a Delfi durante la seconda metà del primo secolo avanti Cristo, credette a questa storia e la pubblicò. Tuttavia, quando Pausania fece il suo viaggio in Grecia, circa un secolo dopo, scoprì che i santuari, gli altari e le grotte sacre di Pan erano ancora molto frequentati.